figlio al fratello con chi lo conoscete, neo parroco non chioccia ma parroco esploratore di due parrocchie grandi di Mondovino, nostro amico, e ci ha aiutato in questi anni a mantenere viva la memoria di Don Giorgis e a fare delle cose assolutamente interessanti. Tutti lo conoscete, mi fermo dietro. Invece Roberto Santolari, un teologo, laico, penso che non prete, non che presbitero, padre di famiglia, studioso, teologo, saggista, fa un sacco di cose interessanti. Abbiamo chiesto a Duilio e a Brunetto di dialogare tra di loro. Brunetto il libro l'ha scritto, Duilio il libro l'ha letto, quindi decidete voi come. Ieri sera a Cuneo è stata molto bella la presentazione che è stata fatta, penso che anche questa mattina sarà una cosa molto interessante. Grazie. Grazie. Chiedo a Liliana di leggere la preghiera che questo potete seguire. Passi il tuo spirito, Signore, come la grezza primaverile che fa fiorire la vita e la schiude all'amore. Passi il tuo spirito come un uragano che scatena una sforza sconosciuta e solleva l'energia addormentante. Passi il tuo spirito sul nostro sguardo per portarlo verso orizzonti più lontani e più vasti. Passi il tuo spirito nel nostro cuore per farlo bruciare di un ardore avido di irradiare. Passi il tuo spirito nei nostri corpi rattristati per farvi affiorare il sorriso. Passi il tuo spirito, Signore, sulle nostre mani stanche, per rianimarle e rimetterle gioiosamente all'opera. Passi il tuo spirito fin dall'aurora, per portare con sé tutta la giornata in uno slancio generoso. Passi il tuo spirito all'avvicinarsi della notte per conservarci nella tua luce e nel tuo fervore. Passi il tuo spirito su di noi per farvi abbondare pensieri fecondi che rasserenano. Passi il tuo spirito e rimanga in tutta la nostra vita. Amen. Bene, ancora buona giornata a tutti, benvenuti. E con molto piacere ho accolto questo invito di essere presente qui per, come dire, incalzare Brunetto Salvarani su alcune tematiche presenti nel suo libro. Io ho conosciuto Brunetto quando ero un seminarista di Belle Speranze e partecipavo ai convegni del SAI alla Vendola. E quindi mi ricordo di te. Qualche mese fa. Qualche mese fa, sì. Una trentina di anni fa. Mi ricordo appunto di te che è venuto già. Venire erano bellissime esperienze che mi hanno segnato in positivo proprio. Scusate, ho dimenticato. Parroco incalzato lui. Scusate, che devo solo. Appunto, quindi con piacere ti ascoltavo già all'epoca e quindi con ancora più piacere ti ascolterò oggi su queste tematiche presenti nel tuo libro, che io definirei una sorta di libro di teologia fondamentale, però diciamo con un taglio storico-pratico, non so come dire, ecco, non un taglio puramente speculativo, questo secondo me è un valore indubbiamente aggiunto. Però vorrei introdurmi a questo incontro facendo riferimento ad un altro libro che ho letto qualche mese fa, di un teologo tedesco, Jürgen Derwig, un suo saggio che ha un titolo molto provocatorio, lo traduco: Cristianesimo può essere gettato via? Credere nell'epoca dell'esaurimento della Chiesa. L'immagine di copertina di questo libro non lascia nessun margine al dubbio, una croce buttata in un cestino dei rifiuti. E, a differenza dello stile, del taglio che in genere Derwig usa nei suoi libri, qui si tratta di uno scritto molto amaro, uno scritto molto disincantato, quasi direi al limite del pessimismo. Ecco. Uno scritto che ha come retrogusto quello di essere una sorta di processo senza sconti e senza alibi. Un processo richiede di avere qualcuno sul banco degli imputati, e in questo caso sul banco degli imputati siede la Chiesa Cattolica. Perché a giudizio di Derwig è proprio l'istituzione ecclesiale, quindi non la malvagità dei tempi, è l'istituzione ecclesiale la prima responsabile della riduzione appunto del cristianesimo ad una sorta di spazzatura da smaltire. Perché? Perché, dice lui, è una chiesa in cui c'è troppo passato e troppo poco futuro, quindi proprio per questo sempre più disertata dalle nuove generazioni, dai giovani, che sono affamati di futuro. Una chiesa che con la sua rigidità dottrinale e morale finisce di restituire un'immagine della fede come ostile alla vita. Ostile alla vita nel senso di contraria per partito preso a qualunque innovazione si affacci sulla scena della cultura e della società, dalla bioetica ai diritti civili, dalla politica alla tecnologia. Molto spesso la prima risposta dell'istituzione ecclesiale cattolica è sempre un no, è sempre appunto un rifiuto. E questa controtestimonianza ecclesiale ha prodotto come risultato la figura di un Dio, dice Derwig, de-ecclesizzato, cioè un Dio che si incontra, che si cerca fuori dai circuiti abituali appunto dell'istituzione cattolica. E quindi anche un Dio in qualche maniera relativizzato, perché come dire, la sua ricerca è all'interno di una maniera di vivere la spiritualità, la religione, che è sempre meno comunitaria e sempre più legata a percorsi personali o individuali delle persone, a partire appunto dalle loro esperienze esistenziali. Ecco, di fronte a questo scenario, no, a tinte fosche, l'unica via per riprendere fiato, per ritrovare un barlume di fiducia, viene indicata da Derwig con un verbo, überschreiten, che in tedesco si può tradurre trascendere, ma anche trasgredire. Ecco, trascendere, trasgredire. E di fronte alle resistenze, alle chiusure che arrivano sia dai vertici, ma in qualche modo anche dalla base, si tratta di cercare in maniera ostinata delle strade alternative, delle strade che siano capaci di introdurre, di mettere una nuova energia evangelica dentro un corpo ecclesiale che appunto è affetto da una profonda condizione di esaurimento. Il termine che anche qui Verbeck usa per indicare questa dimensione di esaurimento è Erschöpfung. È un termine interessante perché appunto in tedesco Schöpfung è la creazione. Erschöpfung starebbe ad indicare, potremmo dire così, una sorta di decreazione, cioè una creazione che si svuota, no? Si svuota della sua consistenza e si svuota del suo senso. Quindi è un termine molto forte, appunto, che qui Verbeck usa per indicare una condizione di crisi, no? Della Chiesa Cattolica. Appunto, qual è la strada che Verbeck indica? Sembra quasi scontata, ma in realtà non lo è. Ritornare ancora una volta a Gesù Cristo. Ritornare ancora una volta al suo stile di accoglienza e di misericordia. Ritornare al suo messaggio che è incentrato sull'annuncio della salvezza, molto più che sulla denuncia del peccato. Tornare alla sua capacità quindi di infondere coraggio, di infondere speranza nella vita, nonostante le aggressioni del male e della morte. Ecco allora il rimedio per una Chiesa che si mostri davvero in uscita, trascendere, trasgredire, tornando a Gesù Cristo. E solo così la Chiesa potrà finalmente diventare consapevole che prima di salvare gli altri, deve preoccuparsi di salvare se stessa da se stessa. E quindi, a dispetto del tono pessimistico che accompagna questo saggio di Verbeck, l'autore sottolinea che non si tratta di una crisi senza sbocco. La soluzione, appunto, è indicata nella via sinodale, che abbiamo appena iniziato, un'importante sezione del Sinodo dei Vescovi a Roma. Ecco, quella via sinodale che permette un discernimento degli spiriti e quindi provoca anche a prendere coscienza che noi dobbiamo concentrarci sul Vangelo, proprio per far sì che la Chiesa non si limiti a girare su se stessa, ecco, ma possa diventare sempre di più, a tornare sempre di più ad essere una comunità testimoniale secondo il desiderio del Signore. Ecco, mi sembra interessante aprire questo nostro incontro con questo riferimento appunto ad un teologo molto apprezzato, un teologo di valore della nostra contemporaneità, perché mi sembra ci possa preparare un po' il terreno per ascoltare quanto Brunetto vorrà dirci questa mattina. E andando quindi al suo libro, vorrei partire proprio in qualche maniera da dove ho concluso questa mia introduzione. Appunto, anche Verbeck nel suo testo si sofferma molto su questa prospettiva di crisi in cui versa la Chiesa Cattolica. Dico la Chiesa Cattolica perché Verbeck è un teologo cattolico e guarda prevalentemente in casa cattolica, ma forse questa crisi non concerne solo una confessione cristiana, ecco, concerne probabilmente, come anche Brunetto suggerisce, il cristianesimo nel suo complesso. Ecco, nei primi capitoli del suo testo ricorrono dei termini come post-cristianesimo, post-secolarizzazione. A me pare che quando, sono termini che non ha inventato lui, ma che prende appunto dalla letteratura teologica, filosofica, sociologica, quando noi usiamo frequentemente il termine post, precedendolo ad un altro termine, è perché abbiamo una qualche idea da dove proveniamo, e da ciò che abbiamo alle spalle, ma non abbiamo affatto un'idea chiara di dove siamo adesso e soprattutto di dove dovremmo andare. E quindi proprio perché non lo sappiamo, cioè non sappiamo nominare esplicitamente il dove siamo e dove vogliamo andare, utilizziamo il post, cioè siamo dopo qualcosa che conosciamo, ma appunto resta ancora da sperimentare, da immaginare il dove ci troviamo e dove vogliamo dirigerci. Ecco perché allora vorrei sollecitare Brunetto adesso a soffermarsi proprio su quello che lui chiama il buon uso della crisi. Il buon uso. Ecco, la crisi ci può gettare semplicemente in uno sconfortante pessimismo, oppure può essere una spinta, uno slancio per essere più coraggiosi, no, nel leggere il presente, nell'immaginare il futuro. Quindi su questo vorremmo sentire. Grazie. Innanzitutto. Sì, grazie Don Duilio, grazie mille agli organizzatori innanzitutto di questa cosa bella, mi auguro, in un posto bellissimo, quindi io ringrazio davvero perché discutere di temi del genere in un contesto del genere evidentemente aiuta. E poi vi dico, per chi è di voi sui social, di tenere d'occhio il Facebook di Don Duilio, perché io in realtà l'ho ritrovato soprattutto durante la pandemia nei tuoi interventi su Facebook, perché sono interventi mai banali, anzi tutt'altro, coraggiosi. Vedo che hai una certa verve e sono molto contento, di solito mi superano a sinistra, diciamo così, e direbbe mio figlio che non è difficile, ma in realtà no, al di là di tutto è un'occasione anche per continuare dei percorsi, la rete, quindi non buttiamola via. E detto tutto questo, grazie per questa bella considerazione, grazie per il riferimento al libro di Verbeek, che non conosco e quindi dovrò cercare, mi pare davvero interessante. La crisi, allora, il dato di fatto è che siamo in crisi, questo è il punto di partenza, ed è vero, è il cristianesimo che è in crisi, sono le chiese cristiane in crisi, con un'eccezione, ecco, butto lì subito un problema, perché se vorremmo parlarne, c'è una chiesa che non è in crisi, è una chiesa particolare, sono le chiese pentecostali, che invece stanno aumentando con mille contraddizioni, con mille problemi, però uso pentecostale sapendo che è un termine che non è sempre di uso comune, talvolta si parla di evangeliche, evangelicali, ci sono mille terminologie, però di fatto questa chiesa non è in crisi, nasce nel 1908 a Topeka in Kansas da un pastore battista che ha voglia di mettere mano ai fondamentali del cristianesimo, e dopo 120 anni noi abbiamo, difficile dire le statistiche esatte, precise, ma comunque mezzo miliardo almeno di persone che nel mondo fanno riferimento a questo tipo di chiesa e sono in aumento e stanno nei piccoli centri come nei grandi, come ho visto io, nel deserto del Sahel ci sono due chiese dell'Assemblea di Dio, a Dori, che è l'ultimo avamposto prima del Sahara nel Burkina Faso, come nel quartiere di periferia di dove sto io a Carpi, frazione Cibeno, l'altro giorno passeggiando ho incontrato un cartello con scritto chiesa. Quindi butto lì perché credo che interrogarsi sulle ragioni di questo successo nella devastazione complessiva non è una cosa da poco. Devastazione complessiva, ne parleremo, la devastazione è in Occidente, la devastazione è da noi, la devastazione è in Europa, è qui che evidentemente non servono i sondaggi Istat, quello recente che dice che il 19% degli italiani si recano in un, luogo di culto una volta alla settimana, sondaggio, cioè statistica e ricerca largamente ottimistica. Il vostro sociologo Don Luigi Berzano, che di queste cose si nutre in maniera molto intelligente, che ha insegnato a Torino per una vita, dice che in realtà si potrebbe parlare del 5%. Ma al di là dei numeri, e certamente la pandemia non ha aiutato, ma al di là di questo, il tema qual è? Il tema è che noi abbiamo chiese in cui sono presenti gli under 14 e gli over 60. Non ci sono le classi di mezzo. E se ha ragione Don Armando Matteo, che scrive la prima generazione incredula, siamo già alla seconda, il tema è che guardandoci negli occhi per i prossimi anni dobbiamo immaginare che questa tendenza sia una tendenza che prosegue. Quindi da questo punto di vista uno potrebbe trarre degli insegnamenti molto negativi, molto drammatici. Qui stiamo chiudendo le famose Baracca e Burattini. Poi dall'altra parte, però, io credo che ci sia un ragionamento da fare. Cos'è che sta finendo? Sta finendo quel cristianesimo di appartenenza che respiravamo e che aveva anche la sua poesia, che aveva la sua ragion d'essere, che aveva un significato. Si nasceva nei paesi cattolici e si era cattolici, nei paesi luterani si era protestanti perché c'era la religione di Stato, in Russia si nasceva ortodossi russi, eccetera, eccetera. Oggi non è più così e soprattutto non sarà più così, quindi dobbiamo fare i conti con il fatto che c'è stata una cesura. Questa cesura per i nostalgici, per i tradizionalisti, possono dire che non è vero, che non sarà così, o sognare il ritorno al passato. In realtà questo ritorno non ci sarà, noi dovremo fare i conti con un cristianesimo che non è più depositario, non è più un dato di fatto, ma è una scelta. Il cristianesimo oggi si sceglie, non lo si adotta per famiglia, per tradizione, perché costuma, perché non possiamo non dirci cristiani, con tutto il rispetto per Benedetto Croce. Bene, questo elemento io credo sia un elemento molto positivo, perché finalmente ci sarà una sorta di discernimento. Qui dicevi, riferendoti al libro, qual è il verbo che, allora, uno di quei verbi che avevi usato? Trasgredire. Trasgredire e trascendere. Beh, qui si tratta finalmente di un discernimento, Quindi qui le comunità che saranno sempre più piccole, che sono sempre più piccole, sono però formate da persone che credono nel fatto che Gesù possa essere il Signore della loro vita e che possa parlare, attenzione, non solo appunto alle chiese, non solo all'interno delle chiese, ma possa parlare al di fuori, che qui dice bene, tornare a Gesù, è certamente tornare a Gesù, decostruire una figura di Gesù che ci hanno presentato in mille modi, ma sempre facilmente inserendolo in un percorso dogmatico, sempre inserendolo in una lettura ecclesiastica ancora più che ecclesiale. Io credo per esempio che Gesù, e faccio riferimento a opere d'arte che vanno dal Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini, alla Buona Novella di De André, nel momento in cui a me è capitato si fanno vedere queste opere d'arte a dei trentenni oggi, è la categoria che io sponsorizzo e che spingo e credo che veramente ci darà delle belle soddisfazioni, poi dopo staremo a vedere, rimangono molto colpiti. perché il problema non è più domandarsi se Gesù è figlio di Dio e quindi che rapporto c'è con la vicenda ecclesiale storicamente accertata, ma entrare in contatto con una persona che ha un fascino straordinario e che ancora oggi riesce a parlare perché è nei rapporti con la realtà ha una libertà assoluta, è una libertà totale. E faccio solo un esempio perché è quello credo più clamoroso: la libertà dalla famiglia, parlandone, vedendo, metto un altro film che potrebbe essere utilmente utilizzato da questo punto di vista, di una mia concittadina illustre, Liliana Cavani, il primo Francesco, mettiamolo, ecco, queste tre opere, sono tre opere che secondo me parlano. Ecco, Francesco che butta via i vestiti e di fronte al padre Pietro di Bernardone, che rimane colpitissimo naturalmente dalla cosa, ma il Vangelo di Marco, Gesù che continuamente rifiuta ogni approccio della sua famiglia e continuamente dice: chi siete voi? Chi, in realtà i miei familiari sono quelli che mi seguono, non vuole incontrare neanche sua madre. Pensate alla contraddizione del fatto che, parlo per la mia azienda di riferimento, la Chiesa Cattolica, ma povero laico, noi abbiamo inventato il familismo cattolico, che è esattamente l'opposto di questo rapporto, esattamente l'opposto. Allora, questa libertà dalla famiglia che oggi i trentenni sentono fortemente perché se ne vanno e fortunatamente perché devono prendere il volo, devono ormai l'Europa è il loro cortile di casa, ormai la dimensione delle lingue, delle nuove tecnologie sono tutte dimensioni che vivono nella loro quotidianità senza nessun problema, l'informazione internazionale. Bene, tutto questo è qualcosa che si incrocia potenzialmente e non poco, prego, e non poco con la figura di Gesù. Certo, con quale Gesù? Allora io butto lì due piste che credo ancora largamente inesplorate, sono quelle che nel libro io suggerisco nella pars construens del libro, quando dico ritornare appunto a Gesù. Da una parte il Gesù ebreo. Cosa significa Gesù ebreo? Qui siamo ancora largamente deficitari, qui abbiamo ancora molto lavoro da fare, perché per tanti secoli noi abbiamo totalmente dimenticato l'ebraicità di Gesù. Il Gesù ebreo faceva, ahimè, i conti con quella teologia del sostituzionismo che è la teologia dalla quale nasce la nostra prima chiesa, vecchio Israele, noi siamo il nuovo Israele, noi siamo il vero Israele, terminologie non scritturistiche che non ci sono nella Bibbia, ma che hanno fatto sì che per tanti secoli la Chiesa si autopercepisse in confronto e in rapporto negativo con Israele, inventandosi quell'insegnamento del disprezzo che Jules Isaac sosteneva essere una delle corde fondamentali della Chiesa. Quindi da una parte, cosa vuol dire Gesù ebreo? Che Gesù non ha inventato una religione, che Gesù non è un fondatore di religione, che Gesù non voleva rompere con l'ebraismo, tutti questi discorsi che invece sono comuni e che neanche Paolo ha rotto con l'ebraismo, perché noi retroproiettiamo la situazione che viene ad aversi soprattutto dal IV secolo in poi, cioè dal secolo dei grandi concili dogmatici e del trionfo politico del cristianesimo, in secoli che invece non conoscevano una distinzione precisa tra ebrei e cristiani. Pensate al dramma di Paolo che viene fatto passare per un convertito dall'ebraismo al cristianesimo. questa è una follia totale. Noi abbiamo anche una festa liturgica il 25 gennaio, che è la festa della conversione di San Paolo. Questo è un proprio, perché Paolo non si converte, è un ebreo che rivendica continuamente la sua profonda ebraicità, che viene abbacinato dalla luce di Gesù, e questa luce di Gesù lo fa scoprire, gli fa scoprire una lettura diversa della propria ebraicità. Ma non è lì il momento di distinzione, tant'è vero che di fronte a Gesù ci saranno due chiavi di lettura che andranno avanti, secondo alcuni studiosi recenti, anche per alcuni secoli, appunto, probabilmente fino al IV secolo. Da una parte la lettura che fanno gli ebrei messianici, gli ebrei che sentono Gesù come loro Signore, e dall'altra parte la lettura che fanno i farisei, i rabbini, che sarà la lettura che diventerà l'ebraismo ufficiale. Ma questa dialettica è una dialettica che dura nel tempo, e che nel momento in cui non la teniamo presente ci fa prendere dei granchi, altro che granchi blu, dei granchi enormi, anche nella lettura del Nuovo Testamento. Poi mi fermo, ma il discorso sarebbe lungo. E l'altra sottolineatura forte, io credo, anche questa che si scontra con una certa lettura dogmatica di Gesù, è la sua umanità. Questa idea di Gesù che è un uomo, che noi in fondo abbiamo pensato sempre come è un uomo però finto, in realtà sapeva già tutto, poteva tranquillamente consegnarsi agli aguzzini romani perché dopo tre giorni sarebbe risorto, e quindi senza riflettere sul fatto che questa sarebbe una tremenda finzione. In realtà l'umanità di Gesù è quella attraverso la quale passa la sua divinità, a mio parere. È l'umanità, e se non si riscopre profondamente la sua umanità, la sua capacità di relazionarsi, anche appunto la libertà sua, il rapporto con gli amici, il suo pianto di fronte alla morte di Lazzaro, l'amicizia con Marta e Maria, l'amicizia con Maria Maddalena, gli incontri che fa sulla via, incontri che sono relazioni, che sono sempre incontri ospitali, aperti. Ecco, la cosa che colpisce è che Gesù non si chiude mai nei confronti dei rapporti con gli altri, neanche dei suoi cosiddetti nemici, perché in realtà anche con i farisei discute, anche con gli scribi discute. Noi poi invece abbiamo costruito una sorta di castello di negatività attorno ai farisei, che tra l'altro invece sono quelli che custodiscono il cuore autentico dell'ebraismo. E quindi attenzione quando usiamo il termine farisei, fariseismo, per indicare l'ipocrisia fatta a persone. Certo, quella è una retroproiezione che viene fatta da parte di chi incomincia a sentire il dualismo tra quelle due vie che vi dicevo prima, la via dei farisei e la via degli ebrei messianici, che saranno aperti ai gentili a partire dal cosiddetto Concilio di Gerusalemme, insomma, quello che viene raccontato negli Atti degli Apostoli al capitolo 15. Ecco, tornando rapidamente, io potevo anche cavarmela citando il libro, l'ultimo libro del mio vescovo, a cui voglio bene, io devo dirlo perché non mi è capitato spesso nella mia lunga vita di poterlo dire. Ho un vescovo intelligente che crede in Gesù. Buona notizia. Buona notizia, e soprattutto non scontata. E il suo ultimo libro, lui si chiama Elio Castellucci, e il suo ultimo libro si intitola Benedetta crisi, col punto esclamativo. Lui è uscito prima del mio, cioè il suo poi è un libro di un vescovo naturalmente, e quindi, ma non ha note, e quindi si legge molto rapidamente. Questa crisi davvero può essere benedetta, questa crisi può essere un'opportunità, questa crisi è un'opportunità se la prendiamo sul serio, se non ci nascondiamo dietro il dito. Prima accennavi al sinodo, credo che ne riparleremo. Ecco, il sinodo dirà parole di verità se in primo luogo accetterà di fare i conti con questa crisi. Nel momento in cui le consolazioni, i discorsi consolatori, beh, tutto sommato non ce la passiamo male. Io ricordo, ad esempio, sono stato al quarto convegno della Chiesa italiana che si tenne a Verona nel 2005, 2006, e mi ricordo che già allora era evidente a mio parere questa crisi, forse diciamo aggravata anche da un certo clima che, 2006, sì, che veniva da Roma, papato Ratzinger, mi fermo qui. Ma ricordo un intervento di un teologo intelligente, e vabbè, probabilmente anche il vostro vescovo, che fece il discorso sulla situazione della religione in Italia, del cristianesimo in Italia, e fu appunto, sto parlando di Brambilla, insomma, comunque, perché non è che, e fece davvero un bel discorso, ma a me parve davvero un discorso totalmente consolatorio, e quindi in quel contesto fuori luogo, che arrivava a dare una grande importanza, ad esempio, alla religione popolare, di cui tutti stimiamo, dagli studi di Gramsci a De Martino, potremmo andare avanti molto, però non è da lì che possiamo produrre istanze di futuro. Non è dalle processioni che si inchinano alla casa del mafioso, senza nessuno scandalo, tranne negli ultimissimi anni. Non è da lì, li si rispetta perché è tradizione, ma sono quelle vicende che fanno parte del passato e non producono istanze di futuro. Ecco, allora mi colpì perché dicevo, ma allora qui stiamo ancora, cioè, e perché lui disse l'Italia da questo punto di vista è messa molto meglio degli altri paesi europei, perché noi abbiamo ancora la religiosità popolare che tiene. Cosa che è probabilmente vero, ma domandiamoci, cos'è la religiosità popolare oggi, non appunto ai tempi di Gramsci e di De Martino, che cos'è oggi che rimane? Certo, la tradizione, i festoni, il cantante, la processione, ma punto interrogativo, un punto interrogativo. Quindi io credo che la crisi vada accolta come una opportunità straordinaria di rivedere da capo il nostro rapporto con il cristianesimo, e alla fine per scoprire che quello che è un problema serio, ma con questo finisco perché altrimenti apro, è il fatto che il cristianesimo sia una religione, perché è una religione, e oggi bisognerebbe interrogarsi sul fatto che proprio questo aspetto è ciò che produce la crisi, il fatto di essere una religione. Mi rendo conto che questo può essere un po' criptico, semmai ne riparliamo, però io stamattina, credo anche non lui, siamo qua non per consolare, ma per creare dei problemi. Spero che abbiamo cominciato bene, insomma. Io già ne ho diversi rispetto a quello che hai detto tu. Ah no, ce l'hai. Sì. Sì, io dico sempre che il compito della teologia è quello di essere coscienza critica della comunità ecclesiale e dell'esperienza credente, perché se ci limitiamo a, come dire, ad un approccio consolatorio e a facili speranze, non facciamo il nostro servizio di teologi, perché appunto il nostro impegno dovrebbe essere quello non tanto di fotografare l'esistente e ancora meno di santificarlo, ma quello di spingere a guardare il futuro, ecco, di immaginare, a leggere seriamente il presente e quindi a poter immaginare autenticamente il futuro. Passo ad un secondo grande tema che è presente nel tuo libro e che ha a che fare con la questione del pluralismo, no? Lo scenario che abbiamo in qualche modo raffigurato, questa consumazione di un'egemonia, no, del cattolicesimo, se parliamo nel contesto così italiano, o del cristianesimo, appunto, questa consumazione del fatto che il cristianesimo non è più il punto di riferimento principale per comprendere la realtà e per organizzare la società, questo ha come contraltare l'affermarsi di uno scenario pluralistico, sia a livello culturale e sia a livello religioso. Ora, effettivamente si può guardare a questo nuovo scenario con la prospettiva di chi lo considera solo una parentesi. Appunto, abbiamo liquidato troppo frettolosamente il cristianesimo come punto di riferimento egemonico, ma arriverà ad un certo punto la consapevolezza che avevamo sbagliato e tutto ritornerà come prima. La parentesi si chiuderà e potremo ricominciare, no? come prima. Penso anch'io che sia davvero illusorio, ecco, mettersi in una prospettiva di questo genere. E quindi dobbiamo fare seriamente i conti col pluralismo, non soltanto in maniera difensiva. Pensavamo di essere i soli e scopriamo che ci sono anche gli altri. E scopriamo che gli altri non sono necessariamente malvagi, non sono necessariamente portatori di prospettive disumanizzanti, no? E quindi dobbiamo davvero fare uno sforzo, una fatica nel cambiare paradigma, cioè nel cambiare il modo di leggere la realtà anche da un punto di vista teologico. E quindi ti chiederei di soffermarti appunto un po' su questo, tenendo insieme la questione del pluralismo culturale e del pluralismo religioso, perché mi sembrano strettamente legate e quindi importanti da considerare insieme. E ti chiederei anche di fare riferimento in modo particolare, certo appunto, alla questione del dialogo, perché di fronte al pluralismo c'è chi ritiene che l'atteggiamento da avere sia quello di evitare il relativismo, no? Però a mio avviso occorre aggiungere che il contrario del relativismo non è l'assolutismo, il contrario del relativismo è il dialogo, e l'incontro. E quindi ti chiederei di fare riferimento in particolare a quel documento firmato da Papa Francesco e dal grande imam di Al-Azhar, no? Dedicato appunto alla fratellanza di Abu Dhabi, il documento di Abu Dhabi, cioè, dedicato appunto alla fratellanza universale, che contiene dei passaggi e delle intuizioni che davvero rilanciano una teologia del pluralismo, o comunque della pluralità, leggendolo come occasione positiva e non semplicemente come un problema da rimuovere o da risolvere. Grazie. Grazie a te. Ma innanzitutto parto da un dato: pluralismo religioso. Qui in Italia noi dobbiamo sempre ripartire da capo, perché da molti anni questo è lo scenario nel quale è evidente che le nostre città sono immerse, i nostri quartieri, però sembra sempre di discutere di qualcosa di strano, di curioso, di una cosa che è cominciato a dire, di una cosa che succede solo da noi. Ecco, allora da questo punto di vista quanto è importante adottare uno sguardo vasto, uno sguardo lungo, uno sguardo. L'ultimo testo di Papa Francesco, che è un altro, si intitola Laudate Deum, è uscito 4 giorni fa, sulla crisi climatica. Io consiglio la lettura perché è un testo che ci fa entrare proprio in una dimensione, oggi si usa questo termine, ma non è spaventoso, globale, da una parte che ci radica fortemente nel nostro qui ed ora, ma nello stesso tempo ci fa avere uno sguardo ampio, uno sguardo planetario, che è quello di cui oggi abbiamo un enorme bisogno. Per cui appunto quando si parla di pluralismo sembra sempre dire ma una cosa curiosa, strana, ma ci sono anche i musulmani dalle nostre parti, ci sono anche i testimoni in Geova, c'è qualche Sikh con il turbante, eccetera. Perché dico questo? È un po' come il discorso della migrazione, no? Che è sempre un'emergenza. È sempre un'emergenza, sì, sì. Qui è sempre un folklore, una curiosità statistica, qualcosa che sembra che succeda solo in Italia, mentre invece basterebbe, voi siete qua vicino alla Francia, basterebbe andare in Francia e rendersi conto che lì da decenni la presenza dei musulmani, la presenza di 700.000 ebrei, la presenza dei buddisti, tanto che France 2 dedica da decenni una trasmissione la domenica mattina al cristianesimo, all'islam, all'ebraismo, al buddismo. Questo mi è sembrato sempre un segno del fatto che la laicissima Francia, nonostante tutto, è più avanzata della cattolicissima Italia, che invece relega nei bassi fondi degli orari, un tempo si sarebbe detto dei film a luci rosse, protestantesimo e sorgente di vita, cioè i due unici programmi che parlano del fatto che ci sono anche strani e curiosi personaggi che non adottano il Papa come punto di riferimento e il Vaticano come cortile di casa. Ecco, questo è già un punto di partenza importante, perché credo che la prima questione è perché in Italia non riusciamo a farci entrare in testa che il pluralismo religioso è lo scenario culturale e lo scenario normale delle società avanzate, delle società europee, delle società occidentali e non solo. E qui credo che ci siano responsabilità importanti, faccio solo un elenco brevissimo, e su tutto questo si potrebbe discutere. Le responsabilità politiche sono tantissime, noi siamo ancora privi di una legge sulla libertà religiosa, siamo ancora privi del completamento della politica delle intese, per cui come sapete i musulmani non hanno un'intesa, i testimoni in Geova non hanno un'intesa, i Sikh non hanno un'intesa, eccetera, eccetera, eccetera, perché, come mai, qui ci sono state proprio delle azioni politiche dirette contro, ci sono state e ci sono, e ancora potremmo dire, il tema lo so, delicatissimo, però l'ho avuto lì, l'insegnamento della cosiddetta religione cattolica in Italia nelle scuole è adeguato oggi a questo scenario, oppure non è figlio di una stagione che comprensibilmente 40 anni fa, quando fu firmato la revisione del concordato Craxi-Casaroli, questo per dire come dove ci collochiamo, Craxi-Casaroli, non c'era la percezione di questo pluralismo, però quanto un insegnamento confessionale e quanto un insegnamento che si basa sulla divisione tra coloro che si avvalgono e coloro che non si avvalgono, cioè la facoltatività di una conoscenza del fatto religioso, che oggi grida vendetta, insomma, è ancora adeguata. Eppure, come vedete, non si può neppure discuterne. Noi, anni fa, con una rivista che si chiamava C'è Mondialità, gloriosa, facemmo convegni, lanciammo, chiamammo anche il ministro allora, il ministro della pubblica istruzione, ci incontrammo, si aprì una strada per una via interculturale e anche interreligiosa per certi versi nella scuola, e invece tutti i cambi di governo di volta in volta fecero sì che tutte queste prospettive cadessero, e da parte, devo dire, dei nostri vescovi, molto bene, prima ho fatto un coming out di un certo livello, e non c'è nessun interesse a prendere in mano il tema e a discutere. Perché? Perché stiamo parlando di potere, evidentemente, questo è un potere reale, però ahimè un potere anche sulle coscienze, per il fatto che una mia collega, Putacaso, che insegna religione, la sera viene abbandonata dal marito che se ne va in Grecia, come quello che qualche tempo fa si è saputo, e la molla, e il giorno dopo perde l'insegnamento senza nessuno. Questi sono casi veramente avvenuti, non è che perde l'insegnamento perché è stata e perché è abbandonata, perché sono separati. Ecco, queste sono cose che possono succedere nell'Italia del 2023 e che sono successe. Potremmo andare avanti molto. Seconda causa, i mass media, il racconto di questo pluralismo, com'è? È ancora un racconto largamente debitore alla cronaca nera, alla cronaca giudiziaria, agli scandalismi e alla folclorizzazione, al folklore. I musulmani, i Sikh sono quelli strani col turbante e con il kirpan, cioè lo spadino. Gli ebrei sono quelli depositari della memoria, per cui tutte le giornate della memoria abbiamo decine di film su quello, e sono sempre quelli che guardano al passato. Io quante volte, è morto un mese fa un caro amico, Bruno Segre, che mi ha insegnato tante cose sull'ebraismo. Mi ricordo una volta in un dibattito a Bologna, nell'amicizia, però mi disse: guarda che continuare a dire che gli ebrei sono le radici del cristianesimo rischia di confinarci per l'ennesima volta al ruolo di depositari del passato. Noi invece ci siamo oggi, e siamo e vogliamo esserci oggi, e non siamo gente strana, ma siamo italiani che abbiamo pagato con il sangue l'appartenenza a questo paese, mentre invece ancora oggi questa è la lettura. Non parliamo dell'Islam e dei musulmani ridotti a doversi giustificare ogni volta che a Parigi c'è una strage, come è capitato al mio amico Adel Jabbar più volte, che mi telefonava e dice: guarda, io vado in giro, questi qua mi puntano il dito, e tu cosa dici della strage? Come se io dovessi dire: no, sono d'accordo, certo, fate pure, complimenti. E tutto questo pagato con i nostri soldi nella TV di Stato, con le trasmissioni, non voglio fare nomi, ma ieri era il suono mastico, anche il mio, di Bruno Vespa, che ha aiutato a costruire un immaginario vergognoso nei confronti dei musulmani. Io ricordo trasmissioni intere in cui il tema è stato, come si chiama, Porta a Porta, c'è ancora Porta a Porta, penso, sempre nell'orario a luci rosse, sempre nell'orario, ma infatti io faccio altro quell'ora, comunque egli è l'eterno, perché c'è comunque, e i musulmani sono quelli che non vogliono i presepi nelle nostre scuole, i musulmani sono quelli che vogliono l'invasione etnica e quindi vogliono, e quelli che vogliono metterci le bombe in casa. tante trasmissioni sono state dedicate, io me ne ricordo una in particolare, 2 giorni dopo l'11 settembre 2001, e quella non la dimenticherò mai, dove l'Islam veniva totalmente appiattito sulla base delle tesi di Oriana Fallaci e di personaggi di questo genere a irrimediabili terroristi senza sé e senza ma. Ecco, questi li pagavamo noi, io lo dico perché appunto se fosse una televisione di altro genere, ma queste sono la RAI, e poi potremmo andare avanti molto. E poi devo dire con molta franchezza, responsabilità ce l'hanno anche le comunità, a cominciare dalla mia azienda di riferimento, perché noi non abbiamo, salvo eccezioni e salvo figure di grandiosa personalità, a cominciare da Carlo Maria Martini, non abbiamo scelto in realtà la strada del dialogo. Noi l'abbiamo fatto camuffando un po', fingendo un po', poi ci sono delle eccezioni, ma in realtà non c'è stato un vero investimento. Ecco, tu, arrivo rapidamente al discorso di Abu Dhabi, perché Papa Francesco, indubbiamente uomo che proviene quasi dalla fine del mondo e da un alto punto di vista nei confronti dell'attività religiosa, questo è una cosa che credo che sia ciò che dà fastidio a tanti, e d'altra parte è stato scelto anche per questo. Ecco, il documento di Abu Dhabi è un documento di portata epocale, e questo è il motivo per cui nelle parrocchie non lo legge nessuno, cioè, non lo si conosce, e un mio amico vescovo, a proposito sempre, mi disse che quando l'ha letto, arrivato a un certo punto, stava accettando tutto, quando arrivò a un certo punto, quando si parla proprio del pluralismo religioso, lui sobbalzò dalla sedia, fece un balzo. Allora gli ho detto, perché l'hai letto bene? Perché all'interno di questo tema complessivo, questo inno alla fratellanza umana che va costruita, attenzione, perché dire fratelli tutti, se non ci si lavora non serve a nulla. Qui il paradigma è il paradigma biblico di Giacobbe ed Esaù. Giacobbe e Esaù sono fratelli gemelli, ma sono nemici fin dall'utero di Rebecca, di loro madre, e tutta la saga di Giacobbe è una educazione alla costruzione di una fraternità che si paga a caro prezzo. E notate bene, nonostante tutto, questa fraternità, Giacobbe ed Esaù, la raggiungeranno, e alla fine c'è quell'abbraccio liberatore, in qualche modo i due si riconosceranno, mentre invece la stessa situazione presso le due mogli di Giacobbe, Rachele e Lia, non si scioglierà nello stesso modo, e lì vincerà il rancore, vincerà purtroppo la diffidenza assoluta. Questo è interessante perché ci fa capire che la fratellanza e la sororità non sono un dato oggettivo, sono un dato che si costruisce nella quotidianità, nella relazione, nella fatica, pagando prezzi immani, e Giacobbe simbolicamente pagherà anche il prezzo del diventare sciancato, quando si abbraccia in questa lotta curiosa con l'uomo, con l'angelo, con Dio, con quello che volete, e alla fine rimane col nervo sciatico messo male. Ecco, quella zoppia io credo sia anche una metafora della situazione umana, che noi siamo zoppi, noi siamo fragili, noi siamo limitati, ma è proprio la coscienza del nostro limite che ci permette uno sguardo diverso su questi temi. E lo sguardo è quello che emerge appunto nel passo incriminato che ha fatto sobbalzare l'amico vescovo, che dice è una sapiente volontà di Dio il fatto che ci sia una diversità religiosa. È una sapiente volontà di Dio, cioè Dio non si ritrae dietro al fatto, davanti al fatto che ci siano tante religioni. Ma se ci pensiamo è abbastanza ovvio. Le religioni sono costruzioni umane, a mio parere benedette, straordinarie. Io dico dalla religione degli antichi aztechi, con tutti i loro limiti, alla religione di Maradona, che è quella più recente e più frequentata nei dintorni di Napoli, ma non solo. Ecco qui, però è un fatto umano, perché noi abbiamo bisogno di leggere simbolicamente la realtà, abbiamo bisogno di vedere che al di là delle cose c'è un significato più profondo. Coelet dice: l'uomo ha dentro di sé un bisogno di ulteriorità. Ecco, quel bisogno di ulteriorità io credo sia la dimensione del simbolico. E la religione è una cosa che ci accompagna da sempre. Ma detto questo, come faccio a pensare che Dio benedica una religione e ne maledica un'altra, o preferisca una religione e ne disdegni l'altra? È anche difficile, cioè è che noi siamo ormai incistati in un ragionamento che ci fa dire alla fine: beh, vabbè, parliamo tanto, però lo sappiamo che poi noi siamo quelli che abbiamo ragione, tant'è vero che siamo tanti, tant'è vero che eccetera eccetera. E no. E allora io sono convinto e sono contento di essere nato in questo contesto, in questo modello religioso, ma come faccio a immaginare che il mio fratello, e poi metterei tanti nomi, Valdese valga meno e abbia meno ragioni di me per un fatto storico, per un fatto culturale, per un fatto del tutto casuale? Uno è nato qui e l'altro è nato nelle valli valdesi e l'altro è nato a Mosca, insomma. Quindi è una provocazione forte, mi rendo conto, rispetto al clima un po' glaciale della teologia del dialogo, che è una teologia che non fa dei grandi passi avanti perché fa molto paura e ha fatto tanta paura. Chi tocca muore. Esatto, perché a Roma purtroppo, e così ricordo una figura di riferimento su questo che si chiamava Jacques Dupuis, è un belga che ha pagato con la vita il fatto di avere cercato una teologia cristiana del pluralismo religioso, che è stato perseguitato letteralmente, modello persecuzioni medievali, ecco, e purtroppo è morto. E allora lo ricordiamo come uno dei nostri santi, come uno dei santi del dialogo, perché io ho avuto la fortuna di conoscerlo, tra l'altro la persona più mite di questo mondo, più tranquilla, non rivoluzionaria, non, però è così. Ecco, quindi Abu Dhabi, il consiglio è di leggerlo e di starci sopra e soprattutto di cogliere la ragione profonda di quel passaggio, firmato non solo dal Papa. Guardate che questo qualcuno me l'ha sottolineato come per dire: beh, questo è un documento che vale di meno, come se ci mettiamo a firmare un documento, vale di meno quello che firmiamo in due rispetto a quello che firmo io, che firmi tu. Ed è esattamente il contrario, ed è esattamente il contrario. Questo è un documento condiviso, e anche il punto di vista musulmano sul pluralismo è profondamente messo in crisi da quel passaggio. Poi è vero che il livello di responsabilità del Papa di Roma, del Vescovo di Roma e dell'imam, del grande imam del Cairo non è lo stesso. Certo che però nell'Islam sunnita è una carica che ha una sua rilevanza, quindi non crediamo che sia tutto così tranquillo e tutto così da accettare. Questo mi fa dire, tra l'altro, ecco, lo dico appunto non in grado consolatorio, perché ormai l'abbiamo detto, ma sottolineando come stiamo vivendo dei tempi molto interessanti, dei tempi che io non avrei dato scontato che avrei vissuto, e questi 10 anni, che sono 10 anni di Papa Francesco, con molte contraddizioni, con tutte le lamentele che possiamo fare, tutte le delusioni che abbiamo avuto anche noi stessi rispetto a dei passaggi, però sono profondamente convinto che saranno un punto di non ritorno. Poi mi sbaglierò, ho sbagliato tante profezie, ma credo che alcuni passaggi, anche perché fare finta che Abu Dhabi non ci sia stato è un po' difficile, fare finta che la Laudato sì, che sarà l'enciclica che durerà nel tempo evidentemente, perché non per le cose che dice sul piano dei contenuti, ma per il metodo che instaura, per lo sguardo lucido sulla realtà che offre, per la dimensione globale e locale del nostro sguardo sulla realtà. Ecco, tutto questo non potremo fare finta e dire vabbè, adesso torniamo poi a discutere delle radici cristiane dell'Europa, di tutte queste cose che non voglio canzonare, però che mi rendo conto oggi sono proprio fuori sincrono rispetto all'aria che tira. Andrea mi sta guardando, forse abbiamo superato il tempo. Però prima di fare i 10 minuti vorrei leggere questo frammento del messaggio a pagina 78. Sentite cosa dice questo documento: il pluralismo e le diversità di religione, di cultura, di sesso, di razza e di lingua sono la sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa sapienza divina è l'origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi. Pagina 78.